e contro l'incenerimento come pratica in generale, e la questione dell'opposizione sociale e popolare al progetto di nuovo aeroporto. Quindi questo in particolare, ovviamente uno sguardo un po' a tutto laddove cade la nostra attenzione rispetto anche alle sensibilità di chi parla e di chi guarda il giornale, cioè io. Partirei per cominciare subito un bicchiere amaro. Sappiamo che, come ho detto già, nelle puntate precedenti, perché ancora appunto la questione non è risolta, non è definita, sta per uscire, per essere in qualche modo pubblica, la sentenza del TAR, del Consiglio di Stato, sul ricorso che a novembre del 2016 aveva sospeso, le autorizzazioni per la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, e avvicinandosi probabilmente questa ufficialità della sentenza del Consiglio di Stato, che è stata discussa il 19 di dicembre del 2017, partono e si susseguono come sempre interventi che pongono problemi rispetto a quello che è la possibilità che l'inceneritore non venga costruito, possibilità che è stata rafforzata dalle prese di posizione, come sappiamo, da parte del Comune di Sesto, ormai è nota e notoria, alla quale si è aggiunta nella ultima parte del 2017, anche si è affiancato anche le prese di posizione del sindaco Di Campi, indubbiamente molto più strumentali rispetto a quelle del sindaco di Sesto, che era stato eletto proprio con mandato popolare dai suoi cittadini, con un no netto sia all'incenerimento che all'aeroporto, e al quale si è aggiunto ultimamente nell'ultimissima parte del 2017, cioè proprio nel mese di novembre e di dicembre, anche le dichiarazioni di quello che viene spesso chiamato governatore, cioè del presidente, più semplicemente del presidente della regione, Enrico Rossi. Quindi, rispetto a chi ha messo dei dubbi e alla possibilità che la sentenza del Consiglio di Stato sia favorevole ai comitati, ai movimenti e quindi al no all'incenerimento, parte la sequela e si concatenano gli interventi di tutti coloro che invece sono per il sì e non vedono altre alternative. Si comincia appunto il 20 di gennaio, quando dal Corriere tiriamo fuori l'intervento del direttore del CISPEL, che dice, virgolettato, le alternative? L'inceneritore o l'inceneritore? Ecco, non ci sono alternative, e in questo, come in altri degli articoli che succederanno, Andrea Sbandate, appunto del CISPEL, ma anche altri politici, altre dichiarazioni che si susseguono su questo argomento, mettono in evidenza quello che sembra essere un problema a loro modo di dire e di vedere insormontabile, cioè quello della continua produzione dei rifiuti, del fatto che già, come sappiamo, l'Europa obbliga regioni e comuni, insomma, per aree territoriali, obbliga a una chiusura e a un limite all'espansione delle discariche. Quindi dicono: beh, se non si incenerisce, come si fa? Beh, noi lo diciamo da tempo: come si fa? Si può fare, i rifiuti vanno sicuramente ridotti, bisogna lavorare indubbiamente a monte del processo di produzione del rifiuto, e poi tutta una serie di buone pratiche anche a valle, non ultima la raccolta differenziata, possono dare ottimi risultati, come è già visibile e sperimentato in tanti piccoli e grandi contesti, a partire da un esempio che cita sempre, diciamo, la rete di rifiuti zero, che è quello dell'enorme comune di San Francisco in California, che in qualche modo è un punto di riferimento, quantomeno indica la possibilità che anche contesti urbani e metropolitani di un certo rilievo possano lavorare in maniera significativa ad una serie di misure che riducano sia la produzione che l'utilizzo dei rifiuti, e quindi sia a monte che a valle. È anche sempre il Corriere, sempre del 20 di gennaio, ci dice: rifiuti, avanti così e saranno guai. Fra 3 anni, discariche piene. Ecco altre dichiarazioni, direi, che vogliono portare paranoia e scompiglio tra quanti continuano ad opporsi. È sempre il Corriere, domenica 21, stop all'immondizia da fuori Toscana, l'assessore Fratoni, il no di Rossi a Case Passerini impone nuove sfide. Rifiuti, 3 anni all'emergenza. La regione, discariche piene dal 2021, ma senza termovalorizzatore che si può fare? E ancora così. Il concetto l'ho già espresso, non mi sto a dilungare su questo tipo di visione senza uscita. Poi la nazione di Prato, invece, la sua paranoia la declina in una salsa che abbiamo già visto nei pilloli precedenti, cioè parte con un titoletto La grande beffa in blu. Tassa sull'inceneritore mai costruito, i costi del progetto pagati in bolletta. Cittadini costretti al rincaro per bloccare l'impianto di Selvapiana. Ecco qui che si torna alla questione più volte, alla bandiera agitata più volte, di quello che si deve pagare ogni qualvolta qualcuno osa mettere in discussione un progetto già fatto. Mai o ben poche volte si prendono in considerazione i costi di quelli che sono questi progetti, se non poi quando in qualche modo ci sono delle voci che più o meno fuori dal coro si esprimono contro o per una revisione di queste. Ho detto più o meno fuori dal coro perché dobbiamo tenere conto che se sicuramente sappiamo e possiamo affermare che questa vicenda che gira intorno alle dichiarazioni recenti dell'inceneritore indubbiamente può essere collocata e vista all'interno di una cornice più ampia che vede in qualche modo nascere anche all'interno di settori significativi dell'universo capitalista, quindi sia imprese sia forze politiche alle quali si possono poi di volta in volta affiancare pezzi della società civile che guardano con una certa presa sulla realtà a previsioni che vedono soprattutto un calo e nuove difficoltà dal punto di vista della disponibilità di materie prime, nonché alle grandi difficoltà e ai costi che gli smaltimenti portano con sé, quindi abbiamo, diciamo, in costituzione settori anche proprio propriamente capitalistici che però guardano con uno sguardo più ampio a quello che sono le loro vicende di bottega, sappiamo anche che si stanno avvicinando le elezioni nazionali, in alcuni contesti anche quelle comunali, per cui certe prese di posizione teniamo sempre presente che si possono guardare anche alla luce di quella che è una dinamica tipica della cattura del consenso e sappiamo quanto nella nostra piana fiorentina la vicenda dell'inceneritore abbia e continui a pesare sulle, appunto, sia comunque ancora pezzo di dibattito politico e su questo, come su altri temi, le forze politiche tentino di costruire consenso o comunque debbano in qualche modo resistere all'erosione del consenso che dal basso cittadini, comitati e movimenti continuano a fare da anni. Andiamo un po' avanti, porto all'attenzione questa notizia del 23 di gennaio sulla nazione, declinata un po' come la nazione sa fare. Abbiamo la questione non da poco che avevamo già un po' visto degli studentati di lusso, la città cantiere, Campus Firenze, l'inaugurazione si lavora ai dettagli, lo Student Hotel apre fra 3 mesi, in camera condom di cortesia. Ecco, nella pagina si affianca a questo articoletto che poi guarderemo un pochino nel dettaglio, un'immagine di studenti sorridenti, studenti in qualche modo, diciamo, di una ipotesi di società multiculturale, multirazziale, perché abbiamo una ragazza nera, abbiamo una ragazza bionda e in compagnia un ragazzo che potrebbe, diciamo, tra questi essere il tipo mediterraneo, mettiamola così. Ridono, scherzano in una stanza ben arredata, le ragazze hanno la birra in mano e quindi questo sposa con l'idea del condom di cortesia, no? Quindi si costruisce lo Student Hotel, questo ostello di lusso per studenti, e si trasmette insieme a questa foto su cui campeggia la scritta Campus Firenze, questa immagine spensierata degli studenti che bevono la birra e poi nello Student Hotel di lusso, non come i poveracci, avranno a disposizione anche i condom di cortesia, insomma i preservativi profilattici, sui quali noi non abbiamo certo niente da dire, ma mi sembra una cosa così, come dire, di una frivolezza che fa abbastanza schifo. soprattutto di fronte alle difficoltà che diciamo le classi popolari, i figli, i giovani, i ragazzi delle classi popolari hanno nell'accesso allo studio. Quindi questa costruzione così mediatica, frivola, spensierata, spendacciona dello studente affiancata a quella degli student hotel fa veramente, mi permetterete questo francesismo, siccome sono stato studente universitario anch'io, fa veramente girare i coglioni. Tenendo anche conto del processo continuo di criminalizzazione e di denigrazione delle forme di aggregazione studentesche che conosciamo bene e che anche a Firenze, insomma, non ha certo niente a che invidiare ad altre città italiane. Pensiamo, io mi ricordo così, si fa per un po' per ragionare insieme, per parlare e riflettere a voce alta, e anche i ricordi aiutano a tutto il processo di denigrazione che è stato fatto intorno alla facoltà di lettere, a quella che era l'esperienza del bar autogestito, che è stato combattuto fortemente perché in qualche modo rappresentava un elemento di diversità, di aggregazione e anche di aggregazione trasversale, perché il bar della facoltà di lettere all'interno del chiostro, era anche punto di riferimento per chi studente non era più o studente non lo era ancora, era per quanto riguarda le lotte studentesche, era un punto e un luogo di raccordo anche tra studenti delle scuole medie, studenti dell'università, giovani studenti lavoratori, ci sono state fatte tante iniziative, quindi questo punto di riferimento è stato più volte colpito e denigrato proprio per l'uso degli alcolici, no? Proprio perché si beveva la birra e quindi tutto va sempre visto anche sotto questa lente, cioè il degrado esiste laddove qualcuno dichiara che c'è e non sono tanto i gesti in sé che descrivono il comportamento degradato, ma si accompagnano poi anche all'origine di classe e al progetto intorno al quale i comportamenti si sviluppano. Quindi bene se dentro lo student hotel si fa anche sesso a qualunque ora, se si beve la birra, se ci saranno schiamazzi e casino, perché comunque tutto avviene all'interno di una dimensione normalizzata e economicamente più che profittevole. Invece non bene quando questi comportamenti si sposano con tentativi di liberazione, con percorsi e processi di emancipazione o di critica sociale. Quindi questo, ecco, genera indubbiamente giramenti di scatole. Ho ricordato il bar di lettere, ma come il bar di lettere si potrebbe parlare della presenza del collettivo politico dentro quella dimensione di campus che è stata costruita nel polo di Novoli, si potrebbe parlare di quello che viene detto con cui si commentano le feste universitarie, dalla facoltà di agraria per arrivare al polo scientifico e in tutti i luoghi in cui ci sono aggregazioni studentesche che puntano alla messa in discussione della figura dello studente inteso come consumatore utente e quant'altro. Insomma, questo è questa notiziola, come ho detto, è un paginone, è un due pagine, perché da una parte è questo che ho descritto, dall'altra invece abbiamo in costruzione, abbiamo un muratore molto moderno che insieme alla cintura degli attrezzi e il caschetto giallo ha anche un portatile in mano con il quale studiare i progetti dei grandi architetti che li commissionano e abbiamo tutta una serie di tappe, l'ex manifattura tabacchi sulla quale serve una variante urbanistica, al teatro comunale ancora suite per studenti, albergo da sogno sopra il Ponte Vecchio, all'ex Belfiore i tempi si allungano, la caserma Cavalli per le start-up, lavori preliminari in corso, quindi tutta una serie di cose che dovranno avvenire, delle quali indubbiamente su alcune cose abbiamo già parlato, su altre parleremo più avanti, d'altronde c'è una certa ciclicità delle notizie che ritornano. Quindi, come ho detto, lo student hotel, no? Quindi sarà un gioiello, verrà inaugurato a fine primavera, sto leggendo dall'articolo, questo sarà il primo albergo italiano di questa catena che è nata in Olanda, si chiama The Student Hotel, fondata da questo imprenditore scozzese Charlie McGregor, scusate la scarsa capacità di pronuncia. Ci sarà così, con un preservativo come biglietto da visita depositato sui comodini degli ospiti e l'invito Spread the love, spargi l'amore. Ecco, questo è, diciamo, parte di quella che è la foolishness compatibile, cioè no, questa idea di una follia al potere, che però è una follia che è del tutto compatibile, del tutto recuperata poi dal sistema della merce e capitalistico, no? C'è anche l'occhiellino mette bene in evidenza come ci sarà bici a disposizione fra le comodità, il poter usare le due ruote e una stanza giochi. Ecco, anche questo credo che non ci sia bisogno di commentarlo. I prezzi partono da €80 a notte in bassa stagione per salire su verso i 150. Sopra gli €800 mensili la tariffa per gli studenti. Ditemi voi, no? Io onestamente non penso che servano parole per commentare qualcosa come quello che ho letto. €80 a notte in bassa stagione fino agli €800 mensili per gli studenti. Mi sembrano che le cifre siano quelle che ho detto, non le voglio guardare più di tanto perché mi ricordano il mio stipendio mensile. Chiaramente tutto questo per, oltre che per spargere l'amore insieme ai preservativi, anche per avere a disposizione palestra e piscina sul tetto con il panorama più bello del mondo, la cupola dei Brunelleschi. Sul più bello del mondo si discute all'infinito se sarà la cupola del Brunelleschi o il cupolone di San Pietro, ma insomma poco ci interessa in questo caso. Sotto nella stessa pagina il colosso Hinz, non so se la pronuncia è esatta, Hines, io dico Hinz ma potrei sbagliare, sbarca in città, ostello a 5 stelle. Dice, ma non l'ho già letto adesso? No, perché il mercato degli studenti di lusso non è saturo e quindi gruppi internazionali a caccia di spazi. Quindi, mentre lo Student Hotel si inaugurerà, come abbiamo detto, sul Palazzo del Sonno in Spartaco Lavagnini, qui abbiamo un'altra azienda a caccia di occasioni. L'idea è quella di realizzare campus universitari innovativi che si fondano su standard anglosassoni e sposano il micro-living, sempre questi anglismi per rendere le cose più complicate. Quindi non abbiamo solo l'impresa di Student Hotel di McGregor, ma anche il colosso americano Hines, che punta a investire nel segmento dello student housing 500 milioni di euro nell'arco dei prossimi 2 anni, con un progetto in fase avanzata anche a Firenze. Oltre al fondo internazionale PW Real Estate Fund LP, che vuole trasformare l'ex manifattura tabacchi in uno studentato a 5 stelle, quindi come dicevo, leggevo prima dall'altro paginone, anche sulla manifattura tabacchi l'idea dello studentato a 5 stelle, così come farà Cassa Depositi e Prestiti nei locali dell'ex teatro comunale. Dietro all'esempio dei pionieri della già fiorentinizzata realtà di Student Hotel, abbiamo già detto, L'ostello delle meraviglie di McGregor, appunto, nel Palazzo del Sonno. Scusate la confusione, avevo sottolineato alcune cose nell'articolo, ma poi leggendole si rischia di ripeterci. Interessante sempre la definizione di scatoloni vuoti, far rinascere a Firenze gli scatoloni vuoti. Ecco, questa è l'idea, no? Chiamandoli scatoloni vuoti, si pensa, quindi si aumenta, il valore linguistico, no? Della definizione. Siccome è uno scatolone vuoto, ben vengano i privati ad investire, non si dice che sono risorse collettive di cui si potrebbe fare un uso altrettanto collettivo. No, sono scatoloni vuoti e quindi cioè, grazie ai privati che se li prendono, li trasformano, altrimenti questi scatoloni ci rimarrebbero magari anche tra le scatole e ci darebbero pure fastidio. Ecco qui che gli scatoloni vuoti di Firenze, un rilancio importante per rimettere in moto il comparto dell'edilizia e il mercato del lavoro. E certamente, infatti, siamo tutti diventati muratori. In larga parte fondi e investitori internazionali che hanno comprato o sono in fase di acquisizione per i pezzi più pregiati del progetto di rigenerazione urbana, che è nato con chi se non con Matteo Renzi, sindaco, con il piano strutturale a volume zero che prevede il recupero di 800 metri quadri di superfici, tra caserme, stabilimenti produttivi, grandi immobili abbandonati. Ovviamente la nazione non può che dire che tutto questo ha funzionato e i compratori sono arrivati, le migliori gemme da sgrezzare hanno già un nuovo proprietario. Ecco, quindi che, come ho detto, appunto, i privati mettono le mani su tutto quello che c'era o resta e lo trasformano al loro uso e consumo, lo trasformano in ciò che il mercato crede di poter valorizzare da un punto di vista economico e quindi tutto questo grandissimo, tutte queste grandissime volumetrie per ora progettate con l'idea di attrarre studenti, ma sempre studenti di lusso. Un altro segmento interessante, importante, che la borghesia, l'immobiliarismo fiorentino vorrebbe portare sempre di più a Firenze. Vado più avanti, il 23 gennaio, una notiziola così che tiriamo fuori dalla nazione, sempre non tanto importante, però non, neanche da poco. C'è la questione della moschea a Sesto che ha portato alle ire ovviamente della destra e del centrodestra che vuole andare a un referendum. Quindi la notizia è referendum contro la moschea, la battaglia del centrodestra. Servono 2.500 firme e il sì di 2/3 del consiglio. Ci interessa fino a un certo punto prendere in considerazione questa ipotesi o contestarla. Diciamo, vorremmo sottolineare come si stia appunto nel comune di Sesto o comunque nella piana si stia agitando questo elemento della moschea, declinato in maniera anche strumentale, come se la moschea fosse poi la grande opera che va a invadere il territorio se stesso. Ovviamente è tutto molto strumentale. Le dichiarazioni sono veramente impressionanti perché di fronte all'aeroporto e all'inceneritore sul quale si tace, anzi, il centrodestra ovviamente è schierato sicuramente per l'aeroporto, sull'inceneritore probabilmente hanno posizioni a sua volta strumentali di volta in volta, però sull'inceneritore sicuramente, sull'aeroporto sicuramente sono a favore, mentre sull'aeroporto che avrà un impatto davvero spaventoso si tace, la moschea non solo si discute da un punto di vista diciamo di agitando l'islamofobia come tratto caratteristico o comunque come corollario di un identitarismo, di un nazionalismo che sta sostanziando sempre più la destra e il centrodestra, ma viene attaccata anche come opera, come grande opera, argomenti che ci sembrano davvero il colmo. Addirittura, e questo me lo sono sottolineato un po' per ridere, un po' per piangere, che tale Leonardo Battistini della Lega Nord dice che la politica è fatta di priorità e la moschea non lo è, né per i se stessi né per i molti musulmani con cui ho occasione di parlare, che chiedono invece casa e lavoro. Ecco, addirittura Battistini di Lega Nord che si preoccupa delle priorità dei musulmani che sarebbero casa e lavoro e lo dice lui che casa e lavoro glieli toglierebbe, ammesso che ce l'abbiano, per darla agli italiani che non li vorrebbero neanche in Italia. Quindi siamo proprio al paradosso della politica di palazzo sempre. Si prepara, come dicevo, la città a ricevere il ministro Minniti, che sarà a Firenze appunto il 12 di febbraio e pare per venire a firmare questo patto sulla sicurezza che chiaramente cosa vuole? Pene più severe contro l'abusivismo commerciale, no? Presidi fissi e più forze dell'ordine. Questa questione tornerà fuori. Sempre forte in tutta la settimana, insomma, è una campagna battente, soprattutto condotta dalla nazione che su questo non ha certo niente da imparare. Il 23 di gennaio, invece, il Corriere Fiorentino riprende la questione dei costi o della impossibilità di fare a meno dell'inceneritore. Case Passerini, costo in bolletta anche se non si fa. Il termovalorizzatore e lo stop di Rossi. Il progetto si pagherà. Ecco ancora, ritorna questa paranoia, questa ombra su tutti noi, per cui ormai è deciso e se si mette in discussione si paga lo stesso, cosa che, come abbiamo già avuto occasione di dire, è una falsità, e lo dobbiamo sempre tenere a mente a ribadire. Tornare indietro si può, anche se c'è. Cioè, poi non c'è molto da tornare indietro, semplicemente ci sarebbe un progetto che non viene realizzato. Si può fare, non deve essere questo che spaventa, ma viene impugnato continuamente come una clava contro il movimento, contro i comitati e contro tutte le voci che si alzano contro l'inceneritore. Addirittura c'è l'incubo del sindaco di Pistoia che dice che se dovesse accadere anche con Case Passerini, la gente prenderà i forconi e ci inseguirà. Ecco, questo è l'incubo, cioè la gente ti dovrebbe inseguire, signor sindaco, se non lo fai perché ormai l'hai promesso, non il contrario. Ecco, non è che la gente prende i forconi e ti insegue se spendi i suoi soldi pubblici, se ammali i suoi familiari. No, la gente ti insegue se non realizzi il progetto. Ecco, queste sono le preoccupazioni. E poi nuovamente la questione del rapporto tra rifiuti e discariche, discariche piene, non possiamo farne a meno. L'articolo sostanzialmente non dice niente di nuovo. Andiamo oltre. Un'altra notizia: il 24 di gennaio mi piaceva, insomma, si fa per dire, ho fatto caso a questa notizia. Gli investimenti, arriva la maxi cedula e la Fondazione Cassa di Risparmio regala le nuove rampe. Ecco qui un meccanismo davvero pesante, davvero perverso, che è all'opera. Quindi l'illusionismo, diciamo, dell'attuale politica e del rapporto tra politica, imprese e finanza, che fa credere o vorrebbe accreditare quelle che sono alcune donazioni, elargizioni, come panacea di tutti i mali, come grossi sforzi di generosità da parte di grandi imprese e soggetti privati. In questo caso, quello a cui ci riferiamo, e lo vado in parte a leggere, in parte a commentare, è questo meccanismo, cioè il maxi dividendo di Intesa San Paolo, no? Far ricco l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Quindi, essendo che Cassa di Risparmio di Firenze ha delle azioni di Intesa San Paolo, l'aumento di queste azioni e quindi il buon andamento dell'azionariato di Intesa San Paolo fa sì che Cassa di Risparmio di Firenze abbia dei soldi. Quest'anno avrà qualche milione in più da erogare al territorio, ci mancherebbe altro. In questo modo promette di fare un regalo alla città di Firenze a conclusione delle celebrazioni dei 25 anni della vita dell'ente. Cosa succederà? La decisione è quella di restaurare le rampe e le vasche che salgono da San Niccolò a Piazzale Michelangelo. Quindi le note rampe verranno, diciamo, restaurate con i soldi della Cassa di Risparmio di Firenze, che però li prende da dove? Dal buon andamento borsistico delle quote che possiede all'interno di Intesa San Paolo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha in portafoglio 323 milioni di azioni in Intesa San Paolo, pari al 2,04%, ha già fatto i conti. A Firenze, nelle casse della Fondazione, arriveranno da Milano 64 milioni di euro. Ecco, quindi sostanzialmente noi dovremmo, secondo il giornale, festeggiare che Cassa di Risparmio, Fondazione Cassa di Risparmio, investendo in Intesa San Paolo, ha dei soldi che poi regalerà al territorio. Quindi questa è l'idea che viene accreditata, mentre dall'altra parte non possiamo non rilevare come si stia parlando di soldi che vengono impiegati nel territorio provenendo però da Intesa San Paolo. Intesa San Paolo, signori, stiamo parlando, una delle banche più grosse indubbiamente d'Italia, uno degli attori finanziari di rilievo sullo scenario europeo e internazionale, una banca armata tra le prime indubbiamente in Italia e non da meno nel resto del contesto internazionale, la banca che abbiamo visto impegnarsi fortemente per portare a casa il progetto di Expo 2015. La banca che si è impegnata fortemente per realizzare il FICO, cioè la Fabbrica Italiana Contadina di Farinetti, la banca che abbiamo visto possedere parte delle azioni finanziarie, la Granarolo, che poi si è schierata fortissimamente con azioni anche di repressione antioperaia contro i lavoratori della logistica. Quindi stiamo parlando di un soggetto come questo, un soggetto contro il quale ci sono state presidi, manifestazioni, il cui ruolo e il cui coinvolgimento anche all'interno del grosso, enorme affare della peggiore grande opera d'Italia, che non è l'Expo che ho già citato, che potrebbe sembrare, ma in realtà è la TAV, cioè il, sì, la TAV, insomma, sapete tutti cosa vuol dire, il treno a alta velocità, e quindi Intesa San Paolo che prende e maneggiando tutto questo e che poi dice va bene in borsa e quindi poi ridà i soldi ai suoi azionisti e quindi anche a Fondazione Cassa di Risparmio. Quindi se rifaranno le rampe sappiamo come le hanno fatte, con una mano ci hanno dato e non con due ma con 10 mani ci hanno preso nell'Expo, ci hanno preso nella trasformazione del CAB di Torino dove poi è nato Fico, ci hanno preso con le politiche antioperaie di Granarolo e questo poi è il regalino del quale secondo loro dovremmo anche essere contenti, invece non lo siamo per niente. Passiamo alla Nazione del 24 gennaio dove ci sono delle signorine come sempre l'uso poi del corpo delle donne, in questo caso diciamo più del volto, comunque sempre di figure femminili è abbastanza rilevante. L'aeroporto, il sindaco annuncia, a giugno 2019 metteremo la prima pietra della nuova pista. Entro dicembre 2020 via ai voli. Queste sono le dichiarazioni di Nardella con questa grossa foto di signorine piene di trolley che stanno per partire e sotto una scritta con uno squallido fotomontaggio si parte. È solo l'inizio di quello che è questa articolata che poi prosegue con pronti al decollo, ancora signore e signorine, sempre giovani donne, non sono le stesse di prima, ma insomma sono sempre giovani donne che devono partire, sono allo scalo, fotografate dentro lo scalo di Peretola. Dall'altra parte a sinistra la foto di Carrai che come vero pappone di Toscana Aeroporti si sbrodola ancora addosso per il record di passeggeri nel 2017, ma resta l'incubo cancellazioni. L'abbiamo già detto nel pillolo precedente, questa questione delle cancellazioni dei voli dovuti ai venti che non sono appunto controllati o controllabili con tecnologie climatiche o atmosferiche, venti che nella piana fiorentina ci sono e ci saranno probabilmente sempre anche in maniera più scomposta o incontrollabile, visti i mutamenti climatici in corso, e che saranno seriamente saranno e sono una seria ipoteca su quella che è la pista attuale o futura che sia. Comunque il sindaco Nardella ci tiene a dire che lui partirà con i lavori a giugno del 2019, questo è tutto da vedere. Sempre in termini di uso del corpo della donna, come dicevo prima, nell'articolo in fondo a destra riporta una signorina sempre donna, sempre capello lungo, fluente, biondo, che con il suo lato B e il tacco 6 aspetta di partire. Qui siamo sempre, diciamo, l'articolo, la pagina, è sempre tutto costruito all'interno di questa bubble di retorica renziana, renziano-farinettiana che si è andata a costruire in questi anni, che gira intorno all'idea del c'è voglia d'Italia, c'è voglia d'Italia, c'è voglia di mangiare italiano, di vedere le bellezze naturali, di vedere i monumenti e all'interno della voglia d'Italia c'è sicuramente fortissima la voglia di Firenze. Ecco, questa è la costruzione retorica all'interno della quale svolgono e si sviluppano gli articoli. Andandoli un pochino a guardare, è molto importante il rispetto delle prescrizioni. Attenzione perché però Nardella specifica che ma non possono diventare il veto alla realizzazione di un'opera pubblica attesa da anni. Ecco, questa è veramente, no? La continua inversione della realtà, cioè il progetto privato, finanziato con soldi pubblici in gran parte, nel quale si perderanno risorse collettive, quali la terra, quali la possibilità di costruire il parco della Piana, quali la difesa delle aree agricole ad oggi esistenti, che però diventa l'opera pubblica attesa da anni, a parte che ad attenderla da anni sono solo loro. E poi appunto questo rovesciamento insopportabile dove il bene o meglio, l'interesse privato viene scambiato continuamente e accreditato come interesse pubblico o addirittura bene comune, cercando di estorcere anche a quello che è un portato dei movimenti altermondialisti o quantomeno a una parte di essi il concetto di bene comune, no? Entro giugno dell'anno prossimo, continuo a guardare l'articolo, quindi i lavori. Lo dice Dario Nardella dai microfoni, niente po' di meno che di Lady Radio. Ha ribadito di voler finire il suo mandato con il primo mattone della pista da 2400 metri. Qui c'è poi, ovviamente, come sempre negli uomini di potere, anche un aspetto, diciamo, di disturbo di personalità, in qualche modo istrionico, napoleonico, per cui c'è sempre il bisogno di lasciare il segno nella storia, no? Quindi Nardella non è meno maniacale in questo di quello che è stato il suo predecessore Renzi, che ha già fatto, ben più carriera. E quindi lui vuole chiudere il suo mandato mettendo la prima pietra. Vuole portare a compimento tutta la questione dell'aeroporto e lo tenterà di farlo muovendo quello che i giornali denominano spesso e volentieri il suo domino, quindi lo spostamento della Mercafir da dove adesso all'area di Castello, al posto della Mercafir lo stadio della Fiorentina e Nuova Cittadella Viola, e insieme a questo l'aeroporto. Tutto in un grande domino, in un grande puzzle fatto di vari pezzi. C'è da dire chiaramente, insomma, non chiaramente, scusate, l'intercalare a volte sono poco propri, ma come si sa, servono a prendere del tempo. D'altronde io sono qui con il computer, guardo, giro le immagini, tolgo gli articoli e sopportatemi, sopportatemi, sopportatemi per favore. Volevo dire che da questo articolo si evince un'altra piccola e interessante verità che spesso viene occultata, nel senso che non se ne parla e non si dice ovviamente, che dei 15 consiglieri di Toscana Aeroporti, visto che ora è soggetto, è diventato pubblico-privato, ben 9 sono di nomina del socio di riferimento che è il soggetto privato Corporación America, tra cui il presidente, no? E l'amministratore delegato. Gli altri 6 sono scelti, diciamo, da un patto pubblico, che però patto pubblico fino a un certo punto, perché c'è la regione, però c'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la provincia di Pisa, la Fondazione Pisa, la Camera di Commercio di Firenze, Comune e Camera di Commercio di Pisa. Quindi sono soggetti in parte pubblici, ma soprattutto privati, e comunque anche se sono a loro volta pu soggetti pubblico-privati partecipati in parte dal pubblico, sono soggetti che hanno come finalità il profitto. E tanto per avere i numeri, 9 su 15 consiglieri, 9 sono nominati da Corporación America, che è appunto il soggetto privato di riferimento, il cui proprietario è Eduardo Eurnekian, il famoso magnate argentino di cui abbiamo parlato anche altre volte. Vado oltre a questa notizia, vorrei andare su una notizia piccola che abbiamo tirato fuori dal Corriere Fiorentino, l'unico che l'ha data, sempre del 24 di gennaio, che parla del bike sharing. Si fa una piccola così, parentesi chiosa su questa cosa, quello che è stato, non dico unanimemente, però a largo spettro considerato come un investimento importante nella direzione di politiche verdi, green della città, che è quello appunto dell'iniziativa del bike sharing presa dall'amministrazione fiorentina, ha però tantissime criticità. Non solo crediamo sia rivolto essenzialmente a turisti o i cosiddetti city users che vengono in città ma non ne fanno poi un uso utilitario. Questo a partire proprio diciamo dall'elemento costitutivo di questa pratica, che è il bike sharing, che è quella di impedire l'affidabilità del mezzo, cioè io non posso partire da casa con la piena e totale garanzia che il mezzo sia sotto casa, perché non è il mio e non ce l'ho messo, e non posso avere la piena e totale disponibilità del mezzo una volta che l'ho lasciato. Sì, posso su alcuni percorsi più trafficati e più centrali avere una certa tranquillità di ritrovare una bicicletta, ma dipende da dove ci si muove. Quindi è un mezzo, è una pratica questa del bike sharing che non risponde ai bisogni di chi la città la abita, cioè la vive, la abita e ci lavora, ma la usa per l'appunto. Quindi direi che questo è l'aspetto, diciamo, più limitante di tutta la vicenda. Però c'è anche un altro aspetto che così anch'io non sapevo, e che è chi ne ha fatto le spese, cioè prima di questo grande investimento da parte del Comune di Firenze, fatto con questa super azienda Mobike, c'era comunque a Firenze un po' di bike sharing, c'erano delle biciclette in affitto, c'erano dei punti nei quali si potevano prendere le biciclette e lasciarle in altri punti. Era un sistema un po' più rigido, ma anche questo ha funzionato nei confronti di questi cosiddetti city users, e in qualche modo aveva anche un'internità alla comunità cittadina di ben altro spessore, e offriva una possibilità a dei a, come, come misura alternativa a dei detenuti di Soldicciano. Si sta parlando della cooperativa Ulisse e della gestione appunto delle biciclette in affitto, che sono state spazzate via dall'arrivo e dalla decisione del Mobike. L'articolo dice: svendesi bici per l'invasione dello sharing cinese. L'annuncio sul web della cooperativa Ulisse: sul mercato i 200 mezzi sfrattati da Mobike e Company. Ora, in questo, secondo me, c'è una cosa da, diciamo, nella concezione del titolo e del sottotitolo, c'è un aspetto, mi sembra purtroppo grave, che va continuamente, o perlomeno va a riprendere, a insistere su questa retorica della maggiore competitività delle aziende cinesi, e quindi l'idea che ci siano, cioè l'invasione dello sharing cinese, no? Questa dicitura. Ma quale invasione dello sharing cinese? Questa è quella di fare entrare Mobike su Firenze e portare le biciclette. È una decisione che ha preso l'amministrazione fiorentina, no? Non è un esempio vero e proprio di concorrenza di mercato. Quindi mi sembra che cancellare in questo articolo il ruolo dell'amministrazione fiorentina, che sceglie di operare in una direzione con un determinato operatore economico anziché in un'altra, togliendo un vecchio appalto per sostituirlo con uno nuovo, mi sembra una cosa veramente nella quale il Corriere si rende complice di questo occultamento pesante e triste. Comunque, insomma, nell'articolo si sa, si vede e si capisce che a rimetterci è la cooperativa Ulisse. Forse non è un caso che proprio alla fine del 2017 il comune ha interrotto, dopo 15 anni, l'appalto del servizio noleggio bici della cooperativa, che ora sta appunto vendendo sul mercato le sue vecchie biciclette. Anzi, se qualcuno gli interessassero, pare che con una sessantina d'euro si comprano delle biciclette, tutto sommato neanche brutte. Mi pare di ricordare che fossero biciclette viola, quelle che gestiva la cooperativa Ulisse. E a subire un duro contraccolpo anche i detenuti che riparavano le biciclette nelle officine della cooperativa, una delle quali nel carcere di Sollicciano. E ecco che anche questo, come progetto sociale, indubbiamente con tutti i suoi limiti, indubbiamente discutibile, ma certamente meglio, no? Per quanto non ci interessi ragionare del male minore, certamente meglio di questo grosso investimento che ha conquistato, così lo dico un po', no, non un po', polemicamente, anche gran parte diciamo, dell'universo dei ciclisti urbani. Abbiamo visto la trasmissione anche interessante fatta da Iacona, mi pare fosse presa diretta, dal titolo La bici ci salverà, e c'era una parte in cui appunto il solito assessore Bettarini descriveva appunto questo investimento del bike sharing, e per come veniva costruito la trasmissione giornalistica, sembrava che Firenze si stesse muovendo in una direzione, diciamo, in controtendenza rispetto ad altre città, soprattutto la protagonista del video e della storia era Roma, che invece condannerebbero la bicicletta. Io lo dico da ciclista urbano e da utente sia delle ciclabili che delle strade: non è affatto così. Quindi è una misura, ripeto, sulla quale magari torneremo a discutere, del tutto discutibile, un investimento del tutto discutibile, che ha anche questo altro aspetto negativo, quello di aver danneggiato la piccola e onesta cooperativa Ulisse. Andiamo ancora avanti, un'altra notizia di un altro spazio del centro storico fiorentino, l'ex scuola dei marescialli che sarà divisa in quattro, cioè che sta succedendo più o meno in soldoni, guardandolo dall'articolo, Nardella vuole che sia un presidio di sicurezza, già che comincia l'articolo con Nardella vuole, attenzione perché cozza fortissimamente con un altro dispositivo retorico che viene usato nell'articolo, ora lo vediamo. L'articolo comincia con Nardella vuole che sia un presidio di sicurezza, un museo, un polo di alta formazione e luogo di feste e eventi. Praticamente cosa succede? Che ci sarebbe stata una gara di idee. Della quale io sfido chiunque ascolta questa breve, insomma, questo pillolo o qualunque altra trasmissione di Radio Wombat ad aver visto qualcosa prima, cioè a qualcuno è stato chiesto cosa gli sarebbe interessato fare all'interno di questa ex caserma dei Carabinieri con chiostro meraviglioso in zona Santa Maria Novella, ma io non penso, mi sembra, credo sia la prima volta che lo sentiamo dire, comunque delle 7 proposte arrivate in risposta alla Call for Ideas di Palazzo Vecchio, queste sono frullate insieme da Nardella. Quindi, in sostanza, è stato chiesto alla città. Io non so onestamente né quando, né come, né in che forme, ma immaginiamo che anche se ci sia stato, o se ci fosse, o se ci sarebbe stato un qualunque processo di partecipazione, le decisioni chi le prende? Giustamente la verità è detta all'inizio dell'articolo. Nardella vuole, quindi 7 proposte sono arrivate, ora le migliori chi le ha decise? Le ha decise Nardella o comunque il suo entourage e viene diviso in 4 spicchi, si fa una cosa e un'altra. Quindi c'è questo aspetto del luogo di feste eventi, intanto si comincia a farci i matrimoni e andiamo appunto alla sintesi e alla sostanza delle cose, da una parte sarà luogo di eventi, congressi e anche matrimoni. In collegamento con che cosa? Ovviamente con l'area museale, dove il chiostro grande di 3.000 posti farà, secondo il sindaco, anche da spalla a Firenze Fiera, per fiere e congresse, durante i prossimi lavori alla fortezza. Ci sarà quindi la possibilità che sia utilizzato in questa veste, cioè per ospitare eventi e fiere e esposizioni. Durante il periodo dei lavori, ma chi lo sa, è molto probabile che poi resterà anche questa destinazione d'uso dei locali. C'è un chiostro meraviglioso che insomma merita di essere visto quantomeno in foto e chiaramente, come abbiamo già visto in altre occasioni, l'amministrazione fiorentina ormai concepisce il patrimonio artistico immobiliare in gran parte proprio in questa funzione, nell'essere appropriato da privati che lo utilizzano per i loro scopi. Cioè la città è appealing, come dicono, cioè attraente, è attraente anche per le sue opere d'arte e anche per la possibilità di utilizzarle. E quindi questo polo fieristico poi non ha più confini, cioè va un po' dappertutto. Andiamo avanti con le notizie, andiamo al 25 di gennaio. Appunto al 25 di gennaio, come dicevo, dove c'è ancora lo Student Hotel e invece Hinz. Quindi siamo sempre nell'ambito delle trasformazioni degli stabili insomma, a scopo di ospitalità di studenti di lusso. Poi abbiamo invece un trafilettino che lo prendiamo giusto per incazzarsi un altro po'. Lo stanziamento più di 1 milione dalla Regione Toscana, case popolari, fondi per il restyling. Si parla delle case popolari su tutta la Regione Toscana, si tratta di 1.174.000 euro, frutto dei proventi della gestione del patrimonio nel 2016, soprattutto di cessioni, quasi 577.000 euro e di patrimonio dell'ex demanio, 262.000 euro. Quindi facendo due conti, no? Praticamente tra le cessioni delle case, cioè degli alloggi popolari e del patrimonio dell'ex demanio, fanno 839 mila euro. Quindi su 1.174 cosa resta? Cioè sono 200 poco più, sono 200 e poco più mila. Quindi questa è la proporzione praticamente. Ci faranno 15 nuovi alloggi in tutta la regione che li faranno nell'area ex Macelli di Borgo San Lorenzo. E con il resto faranno del restyling. Certo, però i soldi per questo restyling da cosa vengono? Vengono dalla vendita di altri alloggi popolari e di altre, di altre parti del patrimonio del demanio. Quindi mi sembra veramente che la notizia si commenta da sola, cioè da dove prendono i soldi vendendo delle case. Quindi voglio dire, anche se quelle che ci sono saranno avranno i soldi per la manutenzione, ma dove sono le case popolari? Ecco, questo è veramente la cosa sconvolgente e micidiale di un sistema che continua a ignorare sempre di più il problema della casa, che invece è sempre più urgente. Andiamo poi a chiudere in chiusura del nostro pillolo con le ultime notizie di venerdì, di sabato. Si vede che sta per arrivare Minniti. C'è stato questo gruppo, questa banda no, di picchiatori che ha fatto piccoli furti, piccole rapinette, sulle quali non entro nel merito perché bisognerebbe conoscere i fatti, e qui ricavando tutto dai giornali, appunto, mi sembra davvero impossibile andare alla fonte e alla possibilità di dire qualcosa di sensato. Divertiamoci tristemente a guardare però dove poi il dibattito viene portato. Palazzo Vecchio, Nardella, sono criminali, il CIE è più che mai urgente. Il sindaco, restino in galera, non possono stare nelle nostre strade. Queste sono le dichiarazioni di Dario Nardella, che utilizza questo episodio per appunto ritirare fuori una vecchia questione, che è quella del centro di identificazione ed espulsione. Lo vuole fortemente, ancora non si è espresso. Qualche mese fa era ritornata fuori la possibilità che fosse collocato nella zona dell'indicatore, intorno alla quale già c'erano state dei movimenti anni fa, però insomma ad oggi non sappiamo niente. Queste sono le dichiarazioni di Nardella in merito a questa vicenda. E prima di chiudere, l'allarme che viene lanciato dal CNR di Pisa ci sembra davvero molto interessante, perché ci porta a chiudere sulla questione ancora una volta della pratica dell'incenerimento. C'è questa indagine epidemiologica del CNR di Pisa, commissionata su tutta l'area del comune di Pisa nel 2015. Che afferma delle cose interessanti, importanti, che vanno ribadite, cioè traffico, industrie del territorio e inceneritore sono le fonti di inquinamento. Bene, il più pericoloso tra queste risulta quest'ultimo, cioè tra traffico, industrie e inceneritore, il più pericoloso risulta l'inceneritore. Si scopre purtroppo l'acqua calda, ma è importante che quando esce dirlo e ribadirlo. Un'indagine seria, commissionata appunto nel 2015, ha preso in considerazione tutti i 132.293 residenti nel comune tra 2001 e 2014. Prende appunto in esame l'inceneritore di Spedaletto, gestito dall'azienda Geofor, e la mercoledì la quarta commissione consiliare del comune di Pisa ha votato all'unanimità l'impegno per fare un istruttore da presentare in consiglio, perché prenda in considerazione tutte le iniziative per la chiusura dell'impianto di incenerimento. Quindi niente, direi che appunto si conferma la pericolosità della pratica dell'incenerimento. Non si sa mai quello che può uscire dagli inceneritori, come abbiamo più volte detto, proprio perché bruciando di tutto dipende da quello che ci si butta dentro. Quindi la prendiamo in qualche modo come una notizia positiva, benché proprio colui che è intervistato in qualche modo dall'articolo, il signor dottor Fabrizio Bianchi, in qualche modo è parte in causa, perché conclude l'articolo intelligentemente dicendo: io mi occupo di dati scientifici, le scelte riguardano la politica e le necessità. Posso solo dire ciò che che ciò che brucia non è mai innocuo e che gli inceneritori di ultima generazione sputano concentrazioni di inquinante assai minori, ma siccome invece di 40 o 50 tonnellate di rifiuti ne inghiottono 100 o 200, e infatti quello di Case Passerini previsto ne brucierebbe 198.000 l'anno, la quantità è assai maggiore. E dice la giornalista: scusi, ma non fu proprio lei, insieme a Eva Bugliatti, a dire di sì con la VIS, cioè la valutazione di impatto sanitario del 2004, a questo inceneritore? E risponde: a condizione che si alleggerisse l'impatto di traffico e funzioni sulla piana. In 15 anni invece è aumentato e ora ci vorrebbe semmai una VAS, che poi si entrano nei tecnicismi, la valutazione ambientale strategica piuttosto che la valutazione di impatto sanitario, ci interessa poco, ma insomma è anche un po' un arrampicarsi sugli specchi da parte di questo dottore, perché benché abbia detto delle cose importanti, proprio perché le ha dette, cioè da una parte ci dice che tra inceneritore, traffico e industria il più pesante è l'inceneritore, poi ci dice no, però prima l'ho autorizzato, però dopo no perché il traffico non è diminuito, ma se l'inceneritore era già pericoloso, quindi continuiamo a dire che la verità appunto che deve emergere è questa: gli inceneritori sono dannosi per la salute, inutili, costosi e li dobbiamo rifiutare. Con questo appunto vi saluto, vi ricordo che ci sentite lunedì alle 15.30 in diretta, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì in differita, sempre alle 15.30. Scaricatevi il podcast e andiamo avanti con l'immobilizzazione e con le lotte. Un saluto a pugno chiuso a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat. Ciao ciao!